Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Con Riccardo Silvi, Valerio Rocchetti in redazione, in regia, e con una guida al quale tra un po' vi diremo anche il nome, però prima gli rivolgiamo così direttamente le domande. Perché dovremmo dirci cristiani? Oggi siamo liberali e perciò non c'è bisogno di rivolgersi al cristianesimo per giustificare i nostri diritti e le libertà fondamentali. Siamo laici e perciò possiamo considerare le fedi religiose come credenze private. Siamo moderni e perciò crediamo che l'uomo debba farsi da sé senza bisogno di guide che non derivino dalla sua propria ragione. Senza contare il resto, in Europa stiamo per unificarci e dunque dobbiamo evitare di dividerci menzionando il cristianesimo fra le radici dell'identità europea. Nel mondo stanno rinascendo guerre di religione e dunque dobbiamo evitare di accendere altri focolai. In casa nostra stiamo integrando milioni di islamici, dunque non possiamo chiedere conversioni di massa al cristianesimo e così via. Presidente Marcello Pera, perché dobbiamo dirci cristiani? Proprio perché quelle ragioni che lei ha citate, che solitamente vengono addotte, sono ragioni non sostenibili. Cito una fra tutte, quella con cui ho iniziato, il liberalismo. Noi siamo veramente in regimi liberali o liberal-democratici, come si dice soprattutto in Europa, certamente negli Stati Uniti, e abbiamo delle carte costituzionali, le nostre costituzioni, abbiamo anche delle carte internazionali dei diritti. E allora noi, per mantenere queste libertà liberali, dei nostri regimi, delle nostre carte, dobbiamo ricordare che quei diritti fondamentali su cui essi si fondano sono tutti diritti che appartengono tipicamente alla tradizione cristiana e che cominciano quasi tutti con il rispetto dell'uomo in quanto uomo, oppure della persona in quanto intrinsecamente dotata della sua dignità. Ma noi abbiamo visto anche in questi giorni, in mezzo a tante discussioni che ci hanno così preso su argomenti importanti come quello della fine vita, c'è, diciamo così, l'impressione che in realtà la riflessione proprio sull'ontologia, cioè sul significato anche dell'essere, dentro questo Occidente che a lungo ha considerato la metafisica una sorta di parolaccia, sia arrivata a una specie di punto di non ritorno. E di lei, diciamo sì, abbiamo già citato il suo ultimo libro, Perché dobbiamo dirci cristiani, per i tipi di Mondadori, nel 2008, ma precedentemente ricordiamo anche Senza radici, un dialogo a due voci con l'allora cardinale Josef Ratzinger, sempre per Mondadori, 2004. E lei, c'è speranza oppure ottimismo in questo recupero? Ma non possiamo farla troppo difficile. Comunque, ma proprio quel riferimento che lei ha fatto all'ontologia, no? Che è una metafisica, cioè allude alla circostanza che c'è qualcosa di vero, di certo, di sicuro, al di là delle nostre apparenze, no? L'essere, come lei diceva. Bene, questo oggi è fortemente in crisi. L'epoca cosiddetta del relativismo fa sì che l'essere, al di là delle apparenze, in realtà non ci sia, ci sono soltanto le apparenze e quindi le verità costruite dentro ogni cultura, ogni tradizione, ogni storia, ogni civiltà e così via. È come se il mondo unico, monolitico, quello dell'essere, quello della verità, quello del giusto, quello del bello, quello, insomma, quello dei valori che sono oggettivi, che non possono essere toccati, come se questo mondo si fosse disintegrato, spappolato, articolato in tanti mondi all'interno dei quali ciascuno, ciascuna comunità, ciascun gruppo, ciascuna società vive come intrappolato, con scarse possibilità di incontro con gli altri. E comunque, questo è il guaio peggiore della nostra civiltà oggi, della nostra cultura almeno, è comunque con la impossibilità di dire che un mondo, una cultura, una tradizione è migliore, preferibile ad un altro. Questa è la crisi culturale vera, questo sgretolamento dell'ontologia, per usare la sua espressione. Beh, anche, diciamo sì, i peggio intenzionati certamente non le attribuiscono un'identità, chiamiamola così, di cattolico, perché la sua storia, la sua tradizione, il suo pensiero si situa all'interno della grande tradizione laica di questo paese. E in questo tentativo lo sta facendo lei, forse qualcun altro, ma diciamo così, con non molta forza come la sua, di voler riscrivere le categorie di una laicità che deve affrontare un tempo che è diverso da quella affrontata dalla laicità liberale del secolo scorso. Sì. Questa battaglia così solitaria. Dove l'altro? Ma c'è una storia un po' degenerata di questo concetto di laicità, no? Perché insomma il suo significato originario è laico, vuol dire che non appartiene al clero, cioè insomma che non sei membro effettivo della Chiesa. Ma oggi laico ha assunto un altro significato, cioè laico è il non credente oppure colui che rifiuta il cristianesimo. A questo ultimo significato che io credo che sia da rifiutare, perché è un significato che non risponde neanche alla storia del termine, non solo, ma ha un rischio notevole. Se il laico è colui che rifiuta il cristianesimo, non nel senso che non è semplicemente credente, ma nel senso che ne rifiuta anche l'importanza del messaggio, e non riconosce che molta della sua cultura è basata su quel messaggio, allora il laico è una specie di signore che è seduto su un bell'albero con tante fronde e tanti fiori e frutta, lo taglia pensando che sia di ostacolo. Oggi il laico ha questo rischio. Non riconoscendo la sua propria storia, guardiamo il caso tipico dell'Europa, no? Molto laicizzata, secolarizzata, scristianizzata, relativistica, eccetera, ma non riconoscendo questo atto battesimale che l'Europa ha avuto, che è tipicamente cristiano, e poi noi non riusciamo a unificarci politicamente, non abbiamo più una nostra identità, non sappiamo che cosa rispondere a chi ci chiede, ma in che cosa credete, quali sono i vostri principali valori. Ecco allora che insomma, questo termine laico, in un certo senso, ovviamente sono laico perché insomma, non sono un cattolico praticante, ma questo termine laico fa da ostacolo alla comprensione della propria identità. Oggi la domanda più difficile che si possa fare a un laico è: chi sei? In che cosa credi? E quando ci si risponde, spesso si risponde che io credo in quei principi, quei valori sacrosanti che sono scritti nelle nostre costituzioni o che sono scritti nelle carte fondamentali dei diritti degli uomini, il laico non si accorge che dicendo così sta dicendo qualche cosa che pesca nella storia cristiana dell'Europa e dell'Occidente. Sì, ma poi tra l'altro tra i tanti osanna che hanno accompagnato le cerimonie di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, diciamo così, nessuno ha voluto notare come la cerimonia iniziasse con la recita del Padre Nostro e che nella democrazia, forse con la recita più compiuta, la Costituzione inizia dicendo tutti gli uomini nascono uguali davanti a Dio, insomma. Ma non so se l'avrà notato, certamente l'hanno notato, i nostri ascoltatori l'avranno notato, che quando un leader politico europeo si candida ad una carica importante, primo ministro, capo dello Stato e così, solitamente la premessa, insomma, la prima frase dice: sono un laico. Così dicendo pensa di non offendere nessuno, cioè mi tiro fuori, sono sopra le parti, fate voi, io non c'entro con la religione. Sono un laico, è una specie di premessa obbligatoria per tutti, qua in Europa e ahimè anche in Italia. Non c'è nessun presidente americano che potrebbe fare un comizio o pensare nemmeno di vincere o competere in una carica dicendo io sono un laico. Dice sempre qual è la sua confessione religiosa. Obama non ha fatto differenza rispetto ai suoi predecessori, ha detto io sono un cristiano, convertito al cristianesimo. Poi ci sono tante decine di denominazioni, di confessioni e così via, ma perché? Lì c'è un riferimento alla religione, perché lì, grazie a quella Costituzione, prima ancora a quella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti che contiene quella formula, c'è la consapevolezza che l'elemento religioso è un elemento come congenere che si sposa con l'elemento liberale e democratico di quella Costituzione, di quella dichiarazione di indipendenza. Cioè lì la religione non fa ostacolo alla Costituzione, La religione e la Costituzione sono innervate tra di loro, sono molto affini, perché quella Costituzione con quei diritti comincia proprio con la espressione gli uomini sono uguali dotati dal creatore. Ma io ho avuto anche l'impressione che con questa premessa, quando poi appunto un presidente degli Stati Uniti parla, erga omnes, usa delle parole che hanno un significato comune, può usare parole come patria, come famiglia, come diciamo così, Stato, come tante altre parole che in quel contesto vengono recepite con lo stesso contenuto. Entro l'impressione con orgoglio anche. Perché vengono, diciamo così, persino il frequentare la chiesa la domenica diventa, o il culto il sabato o il venerdì diventa una specie di orgoglioso esercizio di un diritto civico. Mentre nell'orfanotrofio concettuale in cui viviamo noi in questa parte del mondo, queste sono parole che quando vengono dette o sono vuote o addirittura hanno tanti così significati che ci dividono. Beh, le parole che non vengono più dette è la mia patria. Questa è un'espressione che in Italia non si sente quasi più. Se ne usa un'altra che è certamente molto più debole, se posso dire anche un po' più ipocrita, che è quella il mio paese, che sembra la traduzione italiana dell'espressione americana my country, solo che my country significa la mia patria. E questa ad esempio è una delle espressioni che non se ne usano più. Poi se ne usano altre in significati molto affievoliti, la famiglia ed è una di queste. E poi ce ne sono alcune che non si possono proprio più usare. Il mio credo, la mia religione, questo non si può più usare. E mentre lei la domenica può vedere tutte le domeniche un presidente degli Stati Uniti, Barack Obama incluso, fare una, e questa è una tradizione che va da Jefferson fino appunto a Barack Obama, andare ad una cerimonia religiosa, una messa, e la vedrà tutte le domeniche, e lì comprenderà che l'andare alla messa è al tempo stesso sentimento religioso e sentimento civile, lei questa cosa in Italia non la vedrà più. E se la vedesse, per caso trovasse un presidente della Repubblica o un primo ministro che altro fotografato, filmato mentre va alla messa, e lei troverebbe il giorno dopo le polemiche sui quotidiani, sui giornali, perché questa cosa non si deve vedere, non si deve fare, non si deve dire. Presidente Marcello Pera, con alcune domande che abbiamo tratto a suo ultimo libro, Perché dobbiamo dirci cristiani, liberalismo, l'Europa, l'etica, per Mondadori 2008. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Marcello Pera, la nostra guida questa settimana. Siamo partiti con domande importanti, adesso tenteremo di farne ancora un'altra anche un po' difficile, e forse traendo soprattutto spunto dal suo precedente libro Il dialogo a due voci con Joseph Ratzinger, Senza radici e per Mondadori 2004. Viviamo in un continente, l'Europa, affetto dal morbo del relativismo, un Occidente che non si ama, prigioniero in quella gabbia di insincerità e ipocrisia che è il linguaggio politicamente corretto. Dentro questa gabbia, in questi giorni abbiamo agitato, senza riuscire a dargli un senso condiviso, per esempio, una parola che sembrerebbe elementare, la parola vita. Poi c'è questa parola relativismo che aleggia o viene rimbalzata, relativismo sì, relativismo no, come se fosse da prendere partito di fronte a una squadra sportiva. Due parole senza senso, deprivate di senso o con un senso che rifiutiamo di comprendere, Presidente? No, è con, direi con più di un senso, si tratta di stabilire qual è la gerarchia tra questi sensi di vita. Proprio per vicende drammatiche che sono state portate alla cronaca in questi giorni, ne abbiamo parlato parecchio. E naturalmente come dire, c'è un significato ovvio di vita che è il significato biologico, da cui viene il termine vitale, insomma, legata a qualche funzione bio o fisiologica. Ma poi c'è un altro significato di vita che ha a che fare con il significato più culturale o spirituale, quando si parla, ad esempio, di dignità della vita. E qui abbiamo assistito in queste discussioni ad un conflitto tra chi attribuisce a vita il significato meramente biologico e chi invece ci aggiunge in più un significato di carattere culturale o spirituale. Ecco, io trovo che questo significato molto materialistico, riduzionistico di vita sia un significato che ce ne fa perdere tanti altri elementi che sono connessi alla vita. Pensi all'elemento di relazione. Il malato terminale non ha più vita perché non esercita più le sue funzioni psicologiche, cerebrali e così via, oppure ce l'ha ancora perché è un oggetto della mia attenzione, del mio affetto, del mio interesse, del mio amore per lui. Entro io ancora con lui in qualche relazione, stabilisco ancora con lui qualche comunità. Ecco che allora si vede che se si dà un significato più ampio al termine vita, che non sia quello strettamente biologistico o materialistico, allora il termine si arricchisce e arricchendosi si trovano altre dimensioni e possibilmente anche altri diritti. Parte della discussione che abbiamo avuto in questi giorni vertiva proprio su questo significato. L'altra terribile espressione che lei ha usato, terribile ma insomma comprensibile però espressione sul relativismo, è molto semplice questa da spiegare. E cioè relativismo significa che, applicato ai gruppi e alle comunità, cioè significa che gruppi e comunità, o culture come anche si dice, hanno ciascuno un sistema di valori e di principi e una gerarchia. E quindi anche dei costumi adeguati e pertinenti. Il relativista quindi ammette questa pluralità, che peraltro è ovvia allo sguardo, insomma, io incontro un musulmano, io incontro un ebreo, io incontro chiunque, e quindi mi rendo conto della diversità del suo costume, della sua tradizione, dalla mia. Il relativista a questa pluralità aggiunge un elemento in più, e cioè, siccome sono diversi, siccome ciascuno vive dentro una propria comunità e ciascuna comunità ha propri principi e valori, non c'è modo, ecco quello che dice in più il relativista, non c'è modo di dire se un costume, una tradizione, una cultura, una civiltà è preferibile, migliore o superiore ad un'altra. Questa è una domanda tutta personale, perché il suo libro, Perché dobbiamo dirci cristiani, ha avuto il privilegio di avere, io non conosco altri esempi, di avere come prefazione una lettera autografa dell'attuale pontefice Benedetto XVI, il quale ha fatto, diciamo così, fare qualche salto a qualcuno. Uno lo comprendo quando dice che bisogna privilegiare il dialogo culturale. Anche non tanto per fare finta di avere tante cosette in comune, quanto piuttosto conoscere le differenze e su quelle differenze iniziare anche a comprenderci e a vivere insieme. E l'altro, quando ha riportato dentro la grande matrice del liberalismo la grande sorgente di tutta quella cascata che poi sono i diritti umani. La prima è stata presa come una specie di riduzionismo in senso conservatore, il secondo è stato addirittura rigettato da molti come una specie di eresia. Sì, sono molte le occasioni che si cercano deliberatamente per fare di questo Papa un bersaglio critico e polemico. Però anche in questo caso io ho trovato ragionevole quello che lui ha scritto in quella lettera di prefazione. Intanto ovviamente ne sono rimasto molto grato e commosso, perché anche io penso che non ci siano precedenti di una lettera siffatta, ma credo che questo vada al di là della mia persona e riguarda proprio la intenzione deliberata di questo pontefice di voler entrare in contatto con, dialogare con la cultura laica. E a proposito di questa cultura laica, giustamente gli dice che lei lo ricordava, che noi dobbiamo certamente parlare con gli altri, dobbiamo comprenderci, ma attenzione a confondere il dialogo interculturale, che è un dialogo doveroso, necessario, perché è quello che ci consente di vivere assieme uomini e donne di varie tradizioni, dal dialogo interreligioso, che tecnicamente è praticamente impossibile. Io posso parlare certamente ogni giorno con un uomo di fede islamica e posso parlare dei diritti degli uomini e delle donne, dei diritti dei ragazzi, dell'uguaglianza, del rispetto della persona. Tutte queste cose posso parlarci, devo parlargli, ma insomma sarebbe un po' assurdo se io parlassi e cercassi di parlare con un islamico su concetti come la Trinità o la transustanziazione, cioè certo. Questo sarebbe un dialogo interreligioso, ma non sarebbe comprensibile. L'altro a cui faceva riferimento lei è che sì, io credo che anche Benedetto XVI insomma sia rimasto colpito da quello che sostengo in quel libro, cioè questo elemento di congenerità tra il liberalismo e il cristianesimo. Lei sa che insomma c'è una tradizione molto critica, molto polemica della Chiesa Cattolica, in particolare contro il liberalismo. È un'espressione che per tanto tempo è stata tabù per loro, spesso per ragioni di carattere politico. I liberali erano i tipici anticattolici o anticlericali, certamente, si pensi a tutto il nostro risorgimento, ai nostri padri della patria e così via, ma non solo per questo, cioè il liberalismo è sempre stato considerato dalla Chiesa un bersaglio polemico, perché c'è un'interpretazione del liberalismo secondo la quale il liberalismo si riduce solo al razionalismo e quindi elimina la dimensione religiosa. Allora, poiché nel libro io sostengo che i fondamenti storici, le grandi figure dei grandi fondatori del liberalismo, da John Locke a Immanuele Kant, passando per i padri della Costituzione americana, ad esempio Jefferson, sono liberali e cristiani, e sostengo anche che c'è un elemento, dicevo appunto, di congenerità, cioè di affinità tra la dottrina liberale, quella che afferma il primato dell'individuo sulla società, sulla classe, sulla massa, sullo Stato, e la dottrina cristiana, che afferma invece il primato della persona in quanto creata direttamente da Dio a sua immagine. Ecco, io penso che Benedetto XVI sia rimasto anche egli colpito da questo recupero della tradizione e della storia del liberalismo e da questo nesso che io ho stabilito tra il liberalismo e il cristianesimo. Quindi, se abbiamo affrontato molti temi, se non volete semplicemente giudicarli in base ai titoli, ai riassunti o ai catenacci dei giornali, vi ricitiamo le due opere di cui abbiamo parlato oggi, di Marcello Pera, Perché dobbiamo dirci cristiani, liberalismo, l'Europa, l'etica, Mondadori 2008, e Marcello Pera, Josef Ratzinger, Senza radici, Mondadori 2004. Grazie Presidente. Grazie a lei e agli ascoltatori. E grazie a voi che continuate a seguirci, e grazie al redattore, grazie al regista, a risentirci.